quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio. Dicono io sia iperattivo. Sai sì, tu mi dai fastidio. Se non facessi uscire almeno un disco mi sentirei in debito, ma non capisco se mi porterà credito, diciamocelo. Diventa poi un business inutile che dici cazzate. Sogno di vivere con rap, con tre Verdoni, con tanti soldi da fare invidia a Berlusconi. Sogno di dire tieni il resto e ridere senza resumare le vecchie lire. E sai, mi sono rotto il cazzo di sentire la gente che critica senza capire quello che gli stai dicendo, li stai avvertendo. È un disegno fatto da chi ha in mano il pennello. Camminiamo a piedi nudi sul vetro che taglia, ma non parlo, non vedo, non sento, è l'Italia. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio. Sarò volgare, a qualcuno tocca. Odio chi parla tanto per fare, per dar fiato alla bocca. Odio chi stereotipa, chi pensa che se sono rapper allora vivi in mezzo alla droga. Coglione. Che ogni notte si scopa, che ho la macchina toga. Neanche la patente. Io non sono così, e allora amo una ragazza sola, al massimo fumato qualche canna a scuola. Odio chi veste largo e chi la mattina sembra prenda chetamina quando io sto in letargo. Odio chi non ti compra l'album. Odio registrare da una lattina. Mi stai sul cazzo anche se quando sai che ho 18 anni mi dai del bugiardo. Mi dici che presto che non valgo, che il budget del mio studio è troppo alto. Ma dica a qualcuno che me lo sono guadagnato. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio, ozio, cazzo provo solo ozio, ozio. Se mi ci metto potrei parlare male di tutti e non sarebbero insulti. Direi la semplice e pura verità. Metterei una cintura di castità alla tua lingua di merda. Porco dio, se siedi sulle mani, sai zio, siete dei cani. Fai rewind, non mi pieghi, no. Io ti comprimo, Ivra parla ma con una barra l'ho ammutito. Senti questo sound, spacca se arrivi al terzo round. Scappa, non trovo la rima. Merda. Cazzo, torno quello di prima. Un pazzo. Era tanto che volevo dire certe cose. Odio anche te che mi stai ascoltando. Volevi un rapper tutto fiori e rose. Hai sbagliato, piacere sono Zigzag Alessandro. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio. Ti parla quando non ne voglia. Ozio. La gente che odio poi si accolla. Ozio. Ti soffio al posto dal podio. Ozio. Ti sorrido anche se ti odio. Ozio. Quando non so più che dire. Ozio. Chi vuole quando non hai da spartire. Ozio. La gente che mi circonda. Ozio. Ozio. Cazzo provo solo odio. Ozio.